voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Io acho che você está gostando do açougueiro. Very impressive. What's it mean? I believe you are in league with the butcher. My camera. Fu un normale viaggio in autobus, con neonati che frignavano e un sole ardente, e gente di campagna che saliva a ogni paese della Pennsylvania, l'uno dopo l'altro, finché arrivammo nella pianura dell'Ohio e viaggiammo sul serio, su da Ashtabula e dritto attraverso l'Indiana, di notte. Arrivai a Chicago la mattina abbastanza presto, presi una camera alla YMCA e andai a letto con pochissimi dollari in tasca. Scorazzai per Chicago dopo una buona giornata di sonno. Il vento che veniva dal lago Michigan, bebop al loop, lunghe passeggiate intorno al South Halstead e alla North Clark ed un'unica lunga camminata dopo mezzanotte nei quartieri malfamati, dove un'auto della polizia mi seguì come tipo sospetto. In quest'epoca, nel 1947, il bebop stava impazzando per tutta l'America. I ragazzi del loop suonavano, ma con un'aria stanca, perché il bop era a metà strada fra il periodo Ornithology di Charlie Parker e un altro periodo che avrebbe avuto inizio con Miles Davis. E mentre me ne stavo lì seduto ad ascoltare quel suono notturno che il bebop era venuto a rappresentare per tutti noi, pensavo a tutti i miei amici da un capo all'altro del paese e come in realtà si trovassero tutti nello stesso vasto cortile a far qualcosa di così frenetico e convulso. E per la prima volta nella mia vita, il pomeriggio seguente, entrai nel West. Era una giornata calda e bella per l'autostop. Per uscire dalle impossibili complicazioni della circolazione di Chicago, presi un autobus fino a Joliet, nell'Illinois. Passai davanti al penitenziario di Joliet. Mi piantai, proprio fuori del paese, dopo una passeggiata attraverso le strade laterali ombrose e sconnesse, e chiesi passaggi. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. È la seconda parte di Eclettica, e lo è ormai questa seconda parte da parecchi minuti, da quando abbiamo cominciato assieme al brano omonimo dei The Thieves of Kailua, per poi passare alla prova solista di Spencer Krug dei Wolf Parade, che è questo side project che sta portando avanti da qualche anno, side project di nome Sunset Rubdown, che non è nient'altro quindi che un suo pseudonimo. Il pezzo appena chiuso era Upon Your Leopard, Upon the End of Your Feral Days, il tutto estratto da un album che uscirà per Jack Jaguar il 9 di ottobre, il titolo dell'album Random Spirit Lover, per proseguire con quello che nei prossimi giorni sarà il nuovo album dei Pinback. Da parte di Touch and Go, l'11 di settembre sarà nei negozi Autumn of the Seraphs. Dalla band di Rob Crouch ascoltiamo From Nothing to Nowhere. My place, will you, darling? Girl can't read that sort of thing without her lipstick. Yeah. Avevo fatto in autobus tutta la strada, da New York a Joliet, e avevo speso più della metà dei miei soldi. Il primo passaggio mi venne dato da un autocarro di dinamite, che portava una bandiera rossa, per circa 50 km nel grande Illinois verde, mentre il camionista mi indicava il punto nel quale la statale 6, sulla quale viaggiavamo, incrociava la statale 66, prima che entrambe saettassero ovest verso incredibili distanze. Verso le 3 del pomeriggio, dopo aver mangiato una torta di mele e un gelato, in un chiosco sulla strada, una donna in una vetturetta chiusa si fermò per prendermi su. Sentii dentro una fitta di acre gioia mentre rincorrevo la macchina, ma quella era una donna di mezza età, in realtà madre di figli della mia età, e voleva che qualcuno l'aiutasse a guidare fino all'Iowa. Mi ci buttai a pesce, Iowa, non molto lontano da Denver, e una volta arrivato là avrei potuto riposarmi. Prima guidò lei per poche ore e a un certo punto insistette per visitare una vecchia chiesa in un certo luogo, come se fossimo stati turisti. E poi presi io il volante e, quantunque non valga granché come autista, guidai diritto attraverso il resto dell'Illinois fino a Davenport, nell'Iowa, passando per Rock Island. E qui, per la prima volta nella mia vita, vidi il mio adorato fiume, il Mississippi, asciutto nella caligine estiva, l'acqua bassa, con quel suo forte e ricco odore che è lo stesso del crudo corpo dell'America perché la lava tutta. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. We have our lives together and we want nothing more than we should die together down here upon the shore. My lips upon your neck and your legs around my chest, surrounded by everything that we love the best. So we don't have to falter and see it drawn so slight, 'cause I would run more proudly between your thighs tonight. I wanna be a shining example. I wanna be a shining example. I wanna be a shining. Rock Plaza Central, questo è il nome della band che vi siete appena ascoltati all'interno di Eclettica, mentre prima dell'incipit avrete probabilmente riconosciuto la voce di Zach Condon, ovvero sia Beirut, anzi, sarei stupito del contrario nel caso foste ascoltatori fedeli di Eclettica. Non pensate che avete avuto l'occasione di ascoltare in anteprima il suo preannunciato secondo album in uscita verso ottobre, no, per quello neanche io ancora ho a disposizione nulla. Invece ci siamo sentiti una prova dove Zach Condon collabora. Sono tante le sue collaborazioni di questo periodo a dimostrazione di quanto abbia colpito il suo esordio. Un progetto di nome Alaska in Winter, a cui per Close Your Eyes We Are Blind Beirut ha prestato in questo caso la voce. Si chiude invece con quello che io ritengo uno dei migliori esordi degli ultimi mesi, quindi chiudo alla grande il volume numero 2 di Eclettica, ovvero sia Speck Mountain con Stockholm. Sun blows over me, baiting me out. Stagione numero 13, settimana numero 46, volume numero 2. Indice: Lightning Dust, Cody Chestnut, Le Loop, Uncle con Josh Home, The Cloud Room, Throw Me the Statue, The Thieves of Kailua, Sunset Rubdown, Pinback, Alaska in Winter assieme a Beirut, Rock Plaza Central, Speck Mountain. Giulio Caperdoni vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda a domani, ovviamente alle ore 19 sulle frequenze di Rock FM.